Sorgere del sole o calare delle sere, scandire nel tuo tempo che poi va. Questa vita e i suoi momenti, se qualcosa del futuro resterà. Una sera viva al mare, la tenevi per la mano e giurare per la vita fedeltà. È veloce il calendario, un ricordo già lontano se ne va. Che sarà una storia come tante passerà, un momento vissuto resterà, forse si aspettava un po' di più. Resterà e nel tempo la memoria ci dirà, ogni cosa poi col tempo rimarrà, anche se non tornerà mai più. Sono dei momenti che tornano alla mente e distrarsi non ci aiuterà ad invadere i pensieri, questa volta c'è un'altra realtà. C'è stata un'altra volta, adesso sei lontana, qualcuno che chiedeva la lealtà, l'hai scordata nel diario dei ricordi, so adesso torna qua. Tornerà, ogni attimo di vita ci sarà, ogni cosa nel vissuto resterà, perché avevi forse un attimo di più. Se ne andrà, è veloce il tempo e volerà, ogni cosa alla fine sparirà, non abbiamo un attimo di più. Bastano i ricordi per vivere la vita, a volte il darsi un po' di più, dà sapore al tuo vissuto, la tua storia, il futuro leggerà. Non devi mai pretendere nel chiedere l'amore, nel darsi otterrai molto di più. Una legge dentro il cuore ci prenderà portandoci più su. Tornerà, ogni attimo di vita ci sarà, ciò che è stato per sempre resterà, ed avremo ancora un po' di più. Se ne andrà, è veloce il tempo poi volerà, ogni cosa alla fine ci sarà, è vissuto un attimo di più.